Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie per la cortese attenzione, grazie Barbara Sorrentino per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. Grazie anche a tutti i nostri corrispondenti. Domani c'è la replica a luna di notte, cioè in teoria sarebbe dopodomani, ma non importa. Ci sentiamo.